We have had some technical problems. Hit it! 2 0 2 4 2024 2024 In questa puntata di 2024 parleremo del mercato e delle novità in arrivo, saranno tantissime, nel mondo dei televisori. Ci sono nuove tecnologie in arrivo e ne parleremo nella seconda parte di 2024. Tra poco ci occuperemo dell'ACTA, questo trattato che è stato firmato dall'Unione Europea, ma ci sono parecchi dubbi e quindi tra poco scopriremo che cosa è successo questa settimana. Parleremo anche di taxi e di tecnologia e anche di Expo 2015. Di Enrico Pagliarini. Questo è il primo programma alla radio in Italia dedicato alla tecnologia. Siete su Radio 24, sono le 15:32 minuti, oggi è il 25 febbraio. Vi ricordo che anche questa puntata sarà disponibile attraverso il servizio podcast di Radio 24. Benvenuti o bentornati, potete anche chiamarci al nostro numero verde 800 24 0024 per parlare degli argomenti che vi proporremo durante la nostra puntata. Vi ricordo che da lunedì inizia a Barcellona il Mobile Congress, l'appuntamento mondiale per la telefonia mobile, che continua a tenersi in Europa, e questo è un buon segnale, anche se Stati Uniti per innovazione e Asia per numero di connessioni e quindi per numero di terminali ci stanno superando. Però ancora oggi il World Mobile Congress, l'appuntamento più importante per la telefonia mobile, che oramai è riduttivo chiamare telefonia mobile, si tiene in Europa. Ci saranno sicuramente alcune novità, nessuna grandissima novità, nessun grande annuncio, come dicono gli americani, wow announcement, quelli che ti fanno dire oh, bellissima questa cosa. Però sarà anche un momento utile per fare il punto della situazione. La prossima settimana 2024 parleremo di questo, ma parleremo anche di privacy, perché ci sono alcune novità che vale la pena di approfondire. Adesso parliamo invece dell'ACTA. Ladies and gentlemen, and allow me to update you very briefly on ACTA, the anti-counterfeiting trade agreement. Quella che sentite è la voce del commissario europeo al commercio estero, il belga Karel De Gucht. With my proposal to refer the ACTA agreement to the European Court of Justice. Il commissario ha annunciato mercoledì che la Commissione europea si rivolgerà alla Corte europea di giustizia per chiarire la legittimità dell'ACTA, il trattato anticontraffazione che la Commissione ha firmato dopo essere stata autorizzata dal Consiglio europeo. Chiederemo alla Corte se il trattato sia conforme alle normative europee, soprattutto in tema di libertà di espressione, di informazione su internet, di protezione dei dati e di diritto di proprietà, e in particolare di proprietà intellettuale, ha detto il commissario. With the EU's fundamental rights and freedoms, such as freedom of expression and information, or data protection, and the right to property in case intellectual property. Ricorderete che due settimane fa, sabato 11 febbraio, migliaia di persone hanno manifestato in tutta Europa dopo una protesta organizzata e nata sul web per chiedere ai rispettivi governi di non firmare il trattato per timore che in nome della tutela della proprietà intellettuale l'ACTA minacci la libertà di espressione sul web. Ci sono parecchi commenti, parecchie critiche su questo trattato di 25 pagine, su alcuni aspetti ci sono naturalmente ampi margini di interpretazione, e in molti casi è proprio qui che le critiche insistono, perché si pensa che poi questo possa aprire la strada a cambiamenti delle legislazioni nazionali ed europee. Di queste proteste non ci siamo accorti in Italia, era un weekend dove nevicava e quindi alcune manifestazioni organizzate anche nel nostro paese sono state cancellate, ma sicuramente la stampa, i giornalisti e la politica poco si sono accorti di questo, e questo è sicuramente un peccato ed una colpa. Le manifestazioni più massicce si sono tenute in Germania, 16.000 persone a Monaco, almeno 10.000 a Berlino, anche in altre città tedesche, anche in Polonia, Repubblica Ceca, altri stati ed altre capitali europee. Non è un caso che la Germania, visto il numero di persone che hanno protestato, abbia sospeso il processo di ratifica dell'ACTA assieme all'Olanda, a Cipro, all'Estonia, alla Romania, alla Slovacchia. In ogni caso, fino al pronunciamento della Corte, tutte le ratifiche sono sospese. Per il commissario De Gucht, l'uso della rete internet così come lo conosciamo oggi non cambierà perché l'ACTA non introduce nessuna nuova regola. ACTA will change nothing about how we use the internet and social websites today, since it does not introduce any new rules. Abbiamo detto che la Commissione europea ha firmato questo trattato internazionale. A Tokyo ci sono tutti i più grandi paesi che hanno firmato, dagli Stati Uniti all'Australia, al Giappone, alla Corea del Sud. Questa firma è stata posta appunto dalla Commissione europea, deve essere poi ratificata da ogni Stato. L'Italia ha firmato, abbiamo cercato qualcuno che potesse parlarci, ma alla nostra domanda al governo ci hanno consigliato di sentire ad alcuni ministeri. Per il momento non abbiamo trovato nessun interlocutore che potesse parlarci di questa firma che è stata fatta su questo trattato. Ma c'è un altro tassello importante, cioè il Parlamento europeo. Il Parlamento europeo si dovrà pronunciare sull'ACTA entro giugno. Nel 2010 ha criticato questo trattato, vedremo anche da questo punto di vista che cosa succederà. L'importante è che ci sia un dibattito su questo tema. Vedremo anche che cosa dirà la Corte Europea di Giustizia, la stessa Corte che 2 settimane fa si è espressa sulla possibilità o meno di ordinare ad un content provider, quindi quei siti che ospitano contenuti spesso generati dagli utenti, come ad esempio YouTube, ma anche i social network, ad esempio, dicevamo, si è espressa sulla possibilità o meno di ordinare a queste società di filtrare e controllare i contenuti che ci sono in rete. Non ne abbiamo parlato approfonditamente perché la settimana scorsa ci siamo occupati solo di turismo con questa puntata speciale andata in onda dalla BIT, allora abbiamo rimandato l'approfondimento ad oggi. Abbiamo sentito su questo Innocenzo Genna, che è esperto di regolamentazione europea nel settore delle telecomunicazioni e naturalmente anche di internet. Le piattaforme internet, operatori tipo YouTube, Facebook ed altri, non possono essere obbligati a monitorare, filtrare i contenuti che vengono caricati dai clienti sulle loro piattaforme. In questo modo è stata resa una sentenza che è speculare a quella di novembre, dove lo stesso principio era stato posto per i fornitori internet, cioè per coloro che danno la connettività all'entrata alla rete, come Fastweb o Telecom Italia. Quindi non si può filtrare il traffico internet, sia che siano comunicazioni nella rete, sia che siano contenuti caricati sulle piattaforme sociali o su altri tipi di servizi. Questo è un risultato positivo soprattutto per l'industria di internet, social network, in questo caso, ma nel caso della sentenza di novembre, gli internet service provider, o in qualche modo ha anche delle conseguenze sul consumatore finale? Dunque, è positivo per entrambi, è positivo per l'industria perché l'industria in questo modo viene sollevata da una responsabilità, perché se fossero stati costretti a fare queste attività avrebbe significato che avevano una qualche responsabilità giuridica per quello che fanno gli utenti nella rete e poi avrebbero anche dovuto avere una serie di costi di investimenti supplementari che avrebbero peraltro anche impattato negativamente sulla performance delle reti e dei servizi, perché filtrare il traffico vuol dire rallentarlo, però ha delle ricadute molto positive e molto importanti anche per gli utenti, perché il principio che si è detto che non ci può essere una sorta di censura preventiva su quello che gli utenti si scambiano o che caricano sulle piattaforme sociali. In questo modo l'utente resta responsabile di quello che fa, perché se l'utente scambia dei file protetti al diritto d'autore o comunque li mette in condivisione con modalità non lecite, comunque l'utente ne è responsabile, però non gli può essere impedito preventivamente di farlo. E questo è importante perché nel fare questa attività la gente non necessariamente vuole fare cose illecite, vuole semplicemente comunicare, scambiare informazione. E questo è l'essenza della democrazia. Cioè, la Corte ha voluto dire che la gente deve essere responsabile di quello che fa, però deve essere lasciata libera di fare quello che vuole. Dopodiché, se fa degli errori, eventualmente pagherà per gli errori. Quindi aspettiamo questa decisione della Corte Europea di Giustizia anche sull'ACTA, un tema molto interessante, vi invito ad approfondire su internet, già partendo da Wikipedia trovate molte informazioni. Vi ricordo che potete partecipare alla nostra trasmissione sia chiamando il nostro numero verde oppure il nostro numero SMS 349-238-6666 o anche andando sulla nostra pagina Facebook facendo I like prima di tutto e poi magari lasciando un messaggio. C'è Alessandro che ci scrive, vi stiamo ascoltando dalla Repubblica Dominicana, quindi Santo Domingo. Oggi Pietro Lacorte, che è il nostro tecnico nella giornata di oggi, dice, interpreto il tuo pensiero, che potremmo fare uno studio in Repubblica Dominicana dove trasmettere 2024 e poi andiamo in spiaggia. Potrebbe essere un'idea. Questa settimana Expo e Cisco hanno presentato alcune delle tecnologie che verranno utilizzate durante l'esposizione del 2015 a Milano. Si tratta di fatto dell'evoluzione dei temi di cui parliamo a 2024, che riguardano in buona sostanza il mondo mobile, internet, i computer. Per sviluppare queste tecnologie a supporto del visitatore sono state scelte alcune grandi aziende, ma abbiamo fatto una domanda a Valerio Zingarelli, che è il CTO, così si dice tecnicamente, il Chief Technology Officer, quindi responsabile delle tecnologie di Expo, se ci sarà spazio anche per le start-up, ad esempio per i giovani che hanno delle idee in ambito tecnologico. Noi partiamo dalle grandi industrie perché è il modo per avere una massa critica che mette in moto il motore. Però poi questa massa critica noi la integriamo con le innovazioni che arrivano dalle start-up, dalle piccole aziende, dai singoli individui, dagli studenti. Chiunque che abbia la capacità di dimostrare innovazione significativa. E per questo lanceremo anche quello che si chiama l'Expo Lab, che sarà un centro dove noi aiuteremo anche economicamente dei giovani che abbiano delle idee che si siano dimostrate valide per essere sviluppate. E quindi grazie anche all'aiuto di queste grandi industrie e partner strategici, noi faremo questo Expo Lab dove attireremo le idee dei singoli e delle piccole aziende. Faremo dei bandi, degli annunci sui temi su cui noi chiamiamo la presentazione di proposte. Quindi andate sul sito internet di Expo, ma soprattutto seguite 2024, vi terremo informati anche da questo punto di vista. Mercato delle start-up molto frizzante, ci sono sempre delle novità che cerchiamo di seguire. Adesso abbiamo alcune notizie della settimana. Digital News. La Corte di Cassazione ha stabilito che un'azienda che sospetta che il dipendente sia venuto meno agli obblighi di fedeltà e abbia divulgato materiale riservato possa controllare ex post la casella di posta elettronica di questo dipendente, e il tutto è legittimo. Ed è legittimo anche il licenziamento scaturito da questo controllo. L'amministrazione Obama progetta un progetto per garantire per legge la protezione dei dati personali su internet e garantire quindi l'anonimato degli utenti. Le più grandi compagnie della rete avrebbero già accettato di aderire a questa normativa quando sarà legge. Il procuratore generale della California ha raggiunto un accordo con le 6 maggiori società nel mercato delle applicazioni per rivedere le norme che regolano le modalità con cui i produttori di app gestiscono i dati personali. La Apple, Google, Amazon, Microsoft, HP e Research in Motion, quindi RIM, la società che produce BlackBerry, hanno accettato di aderire a questa sorta di vademecum per la protezione della privacy. La Guardia di Finanza ha scoperto e denunciato una delle fonti di diffusione più ampia in Italia di materiale protetto da copyright, soprattutto serie televisive diffuse poi su internet. Il nickname di questo soggetto è SitCrew, che abita a Merate in Lombardia. Da marzo, quindi tra pochi giorni, il servizio Sky Go sarà gratuito per i clienti di Sky HD. Il servizio permette di vedere alcuni canali in streaming su iPad, Galaxy Tab, iPhone e computer. Avete sentito che alcune notizie riguardano la privacy, questo è un tema molto importante, molto interessante e ci sono appunto notizie delle ultime settimane. Allora, il prossimo sabato dedicheremo buona parte della nostra trasmissione al tema della privacy per approfondire, anche perché dal 1° di marzo entreranno in vigore le nuove normative sulla privacy di Google, quindi commenteremo anche questa novità. 2024. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci, per parlare con noi dei temi di cui stiamo discutendo 2024, 800 24 0024, oppure su Facebook la nostra email 2024@radio24.it o anche gli sms 349 238 6666. Come sapete, cresce la necessità di avere una connessione ad internet diffusa sul territorio anche in mobilità. Ne parliamo quasi tutte le settimane, di case, di uffici, di aziende abbiamo parlato più volte, torneremo presto sul tema della riduzione del cosiddetto digital divide, ma c'è un altro grande tema che è quello della diffusione dei servizi di connettività sui mezzi di trasporto. Abbiamo parlato di treni, quindi di wifi a bordo del treno, di aerei, in Europa c'è molto poco, soprattutto negli Stati Uniti ci sono servizi che creano un hotspot all'interno dell'aereo e li aspettiamo con ansia anche in Europa. Oggi parliamo di taxi perché la cooperativa Samarcanda, che è uno dei radio taxi di Roma, ha lanciato il 20 febbraio, quindi lunedì scorso, il wifi a bordo delle vetture associate, un servizio, se vogliamo, molto semplice. Ne parliamo con Massimo Cipriani, che saluto, è consigliere di amministrazione della cooperativa Samarcanda. Benvenuto 2024. Buongiorno, grazie a lei e un saluto a tutti i vostri ascoltatori. Dicevo, il servizio è molto semplice e quindi molti possono comprendere quali sono i vantaggi del wifi a bordo, però partendo proprio dall'ABC, che cosa avete fatto? Qual è l'idea che avete avuto? Ma guardi, innanzitutto il nostro servizio parte da un'analisi di scenario fondamentale, perché ci siamo resi conto e andiamo verso un'informatizzazione e una digitalizzazione sempre più elevata di tutte le nostre attività quotidiane, dal lavoro e allo svago, ed una diffusione sempre maggiore di smartphone, tablet e quant'altro. L'iniziativa che noi abbiamo battezzato Taxi Connette è volta innanzitutto a illustrare come i nostri taxi non solo connettono i clienti da un punto all'altro della città, ma permettono anche di accedere alla rete. L'iniziativa è molto semplice perché abbiamo dotato tutto il nostro parco auto di 350 taxi della cooperativa Samarcanda. Ha detto 350? Sì, 350 taxi, tutti quanti dotati, è la prima struttura in Europa che lo fa organicamente su tutto il parco auto, di un hotspot a bordo, un semplice routerino che consentirà ai clienti di connettersi gratuitamente alla rete. Per il cliente è sufficiente richiedere la password al tassista. Il servizio è gratuito per il cliente? Sì, completamente gratuito, non verrà chiesto nessun ulteriore sborso al cliente, tranne quello del costo della corsa. Beh, certo. Quindi voi dite, questo è un servizio aggiuntivo che ci fa essere, diciamo, più visibili e competitivi rispetto agli altri, quindi probabilmente un cliente sceglie noi piuttosto che un'altra società di radio taxi. Sì, ovviamente il servizio prima di tutto nasce per soddisfare le esigenze di un mercato sempre più competitivo, ovviamente. Noi come Samarcanda non vediamo la concorrenza come una minaccia ma come uno stimolo. Un altro scopo è quello ovviamente di elevare lo standard qualitativo del servizio offerto dalla cooperativa. Ovviamente abbiamo pensato a dare ai nostri clienti, che per lo più sono più manager o professionisti, la possibilità di utilizzare i tempi morti di uno spostamento taxi. Immagini del traffico congestionato di Roma, quanto sì. Tempo. Esatto, se uno sta mezz'ora, un'ora in taxi può esatto. Lavorare senza problemi. Usare questo tempo per continuare la sessione di lavoro, siamo anche coscienti per i nostri clienti di tempo e denaro, oppure semplicemente di distrarsi, che è un'altra... Sì, chiaro. Senta, che avete fatto un accordo con una società telefonica o come vi siete organizzati? Il nostro è un accordo attraverso un contratto che è con la 3. Noi abbiamo testato prima di utilizzare questa connessione il prodotto per diversi mesi, andandone a verificare l'efficacia e la totale copertura nell'ambito del del territorio urbano e provincia di Roma, insomma. Quindi voi avete su ogni automobile un piccolo routerino che un hotspot. Che si può acquistare anche nei negozi delle società di telefonia mobile, sono piccoli sistemi che si connettono alla rete di telefonia mobile e creano un hotspot wifi all'interno dell'automobile, giusto? Esatto. Senta, per il tassista qual è il costo? Il costo è molto limitato, non è, però noi non lo vediamo un costo, ma è per noi un investimento per elevare lo standard qualitativo del servizio. Ce lo dice il costo? No, è un nostro segreto. Beh, diciamo che un servizio del genere al cittadino comune costa una ventina di euro al mese, immagino che a voi costi un po' meno. Immagina bene. Bene, Cipriani, la ringrazio e le auguro buon lavoro. A lei buon lavoro e buona giornata a tutti. Stiamo parlando di taxi, naturalmente non entriamo nel dibattito sulla liberalizzazione di questo servizio, ma pensiamo che la tecnologia possa contribuire a migliorare questi servizi. Ad esempio, in alcune città le compagnie radiotaxi permettono di chiamare la macchina inviando un SMS, si scrive dove ci si trova e poco dopo si riceve una risposta. In questo modo si bypassa il centralino. Per evitare di conoscere i numeri SMS di tutte le compagnie in Italia che offrono questo servizio, Andrea Tondo è uno sviluppatore che si è inventato SMS Taxi. SMS Taxi permette di chiamare il taxi attraverso alcune compagnie che offrono il servizio di chiamata via SMS, eliminando per l'utente il dover conoscere come comporre l'SMS, il luogo in cui si trova, quindi permette attraverso la localizzazione del GPS presente sul dispositivo di trovare in modo automatico la via e il numero civico in cui l'utente si trova e comporre l'SMS da inviare al numero di telefono chiaramente della compagnia che si è interessati ad utilizzare, che risponderà con un SMS di conferma dell'avvenuta prenotazione e il tempo di arrivo del taxi. Questo semplifica i tempi di chiamata, uno può evitare di dover stare al telefono ad aspettare di prendere la linea con la compagnia radiotaxi. Il grande vantaggio è che, soprattutto se io mi sposto da città a città, posso non conoscere il servizio. Anche senza sapere se effettivamente qual è la compagnia radiotaxi che opera sul territorio, è presente una lista di compagnie all'interno dell'applicazione, al momento sono 14 le città supportate. E attraverso questa lista uno ha subito il nome della compagnia e il numero di telefono che è in automatico inserito nell'SMS che viene composto pronto per l'invio. Quindi soprattutto per le persone che viaggiano per lavoro o anche per turisti, secondo me potrebbe avere un buon uso. Questa è un'idea di come si può fare innovazione, non focalizzatevi solo sul servizio taxi, bisogna prendere spunto anche per capire cosa si può fare in altri ambiti, ma visto che gli SMS sono un metodo, potremmo dire, rudimentale, un po' vecchio, in tutto il mondo sono nati dei servizi di ricerca taxi più evoluti. Allora, grande successo sta ottenendo in Germania MyTaxi, in Gran Bretagna ce ne sono almeno tre, UbiCabs, che tra l'altro mi dicono essere una startup fatta da italiani, GetTaxi, che è una società israeliana che sta puntando attualmente sul mercato israeliano, russo e in Gran Bretagna, e poi c'è anche Ailo, un'altra società. Sono servizi sicuramente molto innovativi, ne parliamo tra poco, vi spiegherò come funzionano, l'idea è molto banale e è molto interessante, in alcuni casi possono anche permettere di bypassare il radiotaxi, ma questo anche per il tassista. Questo è 2024, tra poco parleremo del mercato dei televisori, anche dell'industria dei televisori che sotto pressione con i prezzi sta pensando ad altre tecnologie, parleremo di OLED, sarà con noi Gianfranco Giardina. Vi ricordo il nostro numero verde per chiamarci in diretta per le vostre domande, anche per le vostre considerazioni, 800 24 0024 oppure la nostra pagina su Facebook o anche gli SMS 349 238 6666. 2024. Riprendiamo, questa è la seconda parte di 2024 che troverete anche in versione podcast sul nostro sito internet www.radio24.it. Io sono Enrico Pagliarini, ringrazio Pietro Lacorte che si occupa della parte tecnica e oggi c'è Gianfranco Giardina che potremmo dire alla vecchia maniera, come si diceva in radio una volta, back on radio. Grazie bentornato, mille. Ciao Gianfranco. Grazie mille, bentrovati a tutti gli ascoltatori. Dunque, Gianfranco Giardina, per i pochi che non lo conoscono, è il direttore, l'inventore, il curatore di D-Day.it, anche se senza la tua redazione tu non saresti nulla, come si dice. Assolutamente vero. Dunque, la prossima settimana cosa fate? La prossima settimana siamo un po' in giro per il mondo. Quattro delle nostre persone sono a Barcellona per il Mobile World Congress. Io invece viaggerò verso il Giappone per vedere le ultime novità TV. Ti abbiamo trattenuto per un giorno. Sì, infatti partirò domani. Infatti, sono un po' invidioso perché il Giappone è una di quelle cose che mi mancano. Io avevo studiato tutto un giro poco prima dello tsunami, poi mi sono fermato. Infatti ricorre poi adesso proprio in questi giorni l'11 di marzo. L'anniversario, quindi insomma. Tu sarai là speriamo. L'11 di marzo. No, sarò già tornato. Non credo che sia così puntuale. Tra poco, no, direi di no, speriamo di no, anzi. Dunque, tra poco noi parleremo di TV, di un mercato che quest'anno vedrà delle novità molto interessanti, anche perché questo è un anno che attira interesse verso questo settore, se non altro perché ci sono due grandi eventi come gli europei e le olimpiadi. Volevo però terminare una cosa che stavo dicendo poco fa agli ascoltatori, cioè questi servizi che sono interessanti per il grado di innovazione, non tanto perché sono pensati per il mondo dei taxi, che capisco sia un servizio di cui si parla molto, ma che interessa soprattutto le persone che vivono nelle grandi città, nemmeno tutte perché poi nelle grandi città ci sono anche i mezzi pubblici, però in alcuni paesi europei stanno nascendo questi servizi molto innovativi e io direi che in qualche modo potranno bypassare e quindi addirittura cancellare il mondo del radio taxi, perché sono praticamente dei radio taxi in versione app. Spieghiamo ad esempio, dicevo che ci sono tre società in Gran Bretagna, una che sta facendo molto successo in Germania che si chiama MyTaxi, che funziona sostanzialmente in questo modo. Io sono il tassista, mi abilito, devo dimostrare di essere un tassista vero e proprio con la mia licenza. Mi abilito, mi danno un'applicazione che sostanzialmente dice al sistema dove mi trovo quando sono seduto sul mio taxi. Dall'altra parte c'è l'utente che scarica l'applicazione dall'App Store, ci sarà per tutte le piattaforme. Chiamo il taxi, l'applicazione sa dove mi trovo perché col GPS dello smartphone sa dove mi trovo, quindi fornisce l'indirizzo e automaticamente in pochi secondi mi dice quale dei taxi ha accettato, che mi sembra un'idea intelligente. Assolutamente molto bella, credo che sia una delle tantissime applicazioni sulla geolocalizzazione. Dico che credo che la maggior parte delle applicazioni possibili dobbiamo ancora vederle, ancora inventarle, perché lo strumento c'è, adesso si tratta veramente di mettere al servizio di una serie di attività che facciamo tutti i giorni, come quelle di chiamare un taxi. Dunque, naturalmente anche qui c'è di mezzo lo smartphone, che assieme al tablet è un po', anche qui uso un termine, l'hype del momento, cioè uno dei trend, una delle cose che piacciono molto ai consumatori. Dice però il mercato che non so se al primo posto o è stato superato da smartphone e tablet, rimane il TV, un altro dei desideri dei consumatori in tutto il mondo. Lo è stato sicuramente per almeno un decennio, diciamo da quando sono comparsi i primi TV piatti. Per TV piatti non intendo ovviamente la superficie frontale ma proprio lo spessore, e fino a qualche tempo fa noi ritenevamo che un TV che era spesso 12-14 cm fosse un TV piatto. Ecco, adesso il concetto di TV piatto si è esteso ulteriormente, ci sono TV che sono spessi un centimetro, pur essendo di dimensioni molto generose, 52 pollici per esempio, 56, quindi 55, quindi questo è stato per anni veramente il fattore catalizzante tutto il mercato elettronico di consumo. Ultimamente c'è da dire lo smartphone e tablet però fanno una bella concorrenza, ma io non darei tutto il merito proprio al concetto di smartphone e tablet di per se stessi, quanto al concetto, e ci leghiamo ancora al discorso dei taxi che facevi prima, mobilità. Di internet in mobilità, cioè la connessione a internet in mobilità è quella che ha abilitato gli smartphone che già esistevano a diventare qualcosa di veramente interessante. Sì. Tuttavia noi oggi parliamo di TV, se non altro perché tu così ti prepari, perché da domani comincerai una serie di visite in fabbriche che producono le TV, che sono oramai rimaste solo in Giappone, Corea, Cina, La produzione dei pannelli è tutta in Estremo Oriente. e l'assemblaggio del pannello con l'altra elettronica e il telaio viene fatta in alcuni casi anche in Europa, nei paesi dell'est, però oramai diciamo che la produzione del cuore del TV, cioè il pannello, è tutta concentrata in Estremo Oriente. Ho visto che nelle ultime settimane ci sono stati alcuni annunci, ma uno in modo particolare, poi diciamo quale, che ci fanno dire, adesso estremizzo, che se l'LCD non proprio è morto, però se la passa un po' male. Cioè, ho letto che Samsung ha annunciato uno spin-off di una società che farà e si occuperà solo di LCD e che quindi diventerà parte autonoma e non più all'interno della società, perché c'è una forte pressione sul prezzo. E vedo anche che, ma del resto tu stesso ce lo raccontavi all'inizio dell'anno da Las Vegas, molte, se non tutte le grandi società che producono questo tipo di apparecchio si stanno rivolgendo all'OLED, che finalmente arriva, ma arriva per tutti i mortali, a prezzi normali. Quasi normali, quasi, diciamo, quasi accessibili. Sì, diciamo che l'LCD se la passa male soprattutto per, diciamo, dal punto di vista dei produttori, perché sta diventando un business molto meno redditizio di quanto non è stato negli anni passati. La competizione di prezzo, la crisi, una certa massificazione del prodotto ha portato a proprio una compressione sul prezzo. Oggi è molto facile trovare dei grandi schermi sotto i 1000 euro, quindi stiamo parlando sicuramente di prezzi molto accessibili. Ricordo, ma lo ricordo sempre perché è bene ricordarlo, che il tubo catodico al massimo della sua maturazione, quindi prodotto direi assolutamente oramai sfruttato al massimo, quindi parlo di una decina abbondante di anni fa, i 32 pollici a tubo catodico, quindi gli schermi più grandi disponibili all'epoca, top di gamma, avevano un costo intorno ai 5 milioni di lire. Quindi se noi riportiamo, attualizzassimo queste 5 milioni di lire, forse parleremmo quasi di 5 mila euro oggi, ma una cosa che ci assomiglia. Sì. Comunque, se facciamo proprio la traduzione, poco meno di 3 mila euro. 2008. Sì, sì, se volessimo proprio tradurla sul cambio del 2002, quindi alla fine devo dire che la compressione sui prezzi c'è stata effettivamente. I TV di oggi sono tutti in alta definizione, cosa che i vecchi tubi catodici non erano. Sono piatti, cosa che i vecchi tubi catodici non erano. Hanno molteplici ingressi, hanno le prese USB, hanno spesso dell'intelligenza a bordo e le prese di rete, e chi più ne ha più ne metta. Sono macchine molto diverse dai TV di allora e costano molto meno anche senza attualizzare i prezzi di 10 anni fa. Quindi è chiaro che da questo punto di vista sono meno attrattivi per i produttori, continuano a esserlo per gli utenti finali, forse un po' meno semplicemente perché molti ovviamente sono già passati a TV a schermi piatti, e chi ha comprato un TV 2 anni fa, anche se in quelli di oggi potrebbe trovare ulteriori novità, per esempio la visione 3D, per esempio una connettività più completa, beh, sicuramente non possono essere reinteressati così velocemente a cambiare un TV semi nuovo. Dunque, oggi vi racconteremo quali sono le ultime novità che vedremo tra qualche settimana anche sul mercato, nuove interfacce che ci fanno interagire magari con i gesti o con la voce, con la TV, nuove piattaforme di Smart TV, ma tra poco parliamo di OLED per capire che cos'è, come si vedono questi prodotti, eccetera eccetera. Vogliamo sapere anche la vostra, il vostro parere, oppure le vostre domande al nostro numero verde 800 24 00 24. Ci risentiamo tra poco. Strade in diretta. Traffico scorrevole su strade e autostrade, da segnalare solamente dei rallentamenti per il traffico intenso sul tratto romano della 24 tra Portonaccio e Tor Cervara verso il grande raccordo anulare. Prudenza chi viaggia sulla 8 Milano-Varese, è segnalata una perdita di carico tra il bivio per la 9 e lo svincolo di Lainate sulla carreggiata in direzione Milano. Circolazione comunque scorrevole sul resto dei percorsi, ricordiamo i lavori di realizzazione della terza corsia questa notte sulla 14 Adriatica, l'autostrada sarà chiusa tra Pesaro e Fano nelle due direzioni dalle ore 22 fino alle ore 6 di domani mattina. È tutto, Strada in diretta torna tra mezz'ora. 2024. Le 16 e 16 minuti, questo è 2024, riprendiamo, oggi parliamo di TV e in modo particolare parleremo nei prossimi secondi di OLED, che non va confusa, Gianfranco, con i LED. Cioè, assolutamente no, sono due cose proprio drasticamente diverse. Cioè, il nome è un caso che sia simile? Sì, praticamente è un caso, il principio che c'è dietro è completamente diverso. Va anche ricordato che i TV che oggi noi chiamiamo LED sono TV LCD, retroilluminati, grazie alla tecnologia LED. Quindi per semplicità e per distinguerli velocemente dagli LCD più tradizionali, quelli retroilluminati a fluorescenza, vengono chiamati LED, ma in realtà sono degli LCD. Sì, ricordiamo che in generale i LED sono le nuove lampadine. Cioè, i LED, quasi sì, tutto, ecco, cioè, diciamo, no, sì, non tutto, però queste le abbiamo conosciute un po' dovunque, anche sul frontale di tutti gli apparecchi. Ormai quando vediamo una piccola spia accesa, quella è un LED. Detto questo, LED se ne possono fare di tutte le misure, tutti i colori, eccetera, eccetera. Quelli usati nei TV oggi sono semplicemente delle barre LED messe sul fianco, normalmente sul fianco dello schermo, sui quattro lati dello schermo, e servono per dare la retroilluminazione al pannello LCD, che senza questa retroilluminazione sarebbe completamente buio. Quindi quello che si dice normalmente in un pannello LCD, che non è in grado di emettere spontaneamente la sua luce, la luminosità che costruisce l'immagine, ma ha bisogno di un qualcosa che lo retroillumini. Questo per le tecnologie che già abbiamo oggi. L'OLED invece fa un passo avanti, più simile se vogliamo al plasma, ed è un cosiddetto self-emitting panel, quindi è in grado di emettere autonomamente la luce che compone l'immagine, non ha bisogno di una retroilluminazione. Le singole celle, che hanno appunto dei materiali organici al proprio interno, di cui la O, organic, appunto dell'OLED, è in grado di emettere la luce, e a seconda delle tre celle, la solita tripletta rossa, verde, blu che compone l'immagine, emettere quindi colori, e quindi avendo il pixel molto piccolo anche poi immagini ad alta risoluzione Full HD. Fino ad oggi questa tecnologia, che già esiste, che già se ne parla da tanto tempo, l'abbiamo vista soltanto sui device portatili. E quindi sì, ci sono diversi telefonini che hanno il display OLED sì, o nella sua variante chiamato AMOLED. Ecco, stiamo sempre parlando della stessa famiglia, e su un piccolo TV in commercio, quindi un TV 11 pollici, è stato il più grande commercializzato fino a oggi, e da un costo importante, intorno ai 3.000 euro, quindi molto costoso, neanche Full HD, però 11 pollici effettivamente è molto piccolo. Che cosa succede? Succede che adesso, proprio a Las Vegas, sono stati annunciati, e sappiamo che sono partiti già i primi piani produttivi. Sono stati annunciati, ma anche li avete visti? Li abbiamo visti, sì, sì. E sono partiti già i primi piani produttivi, cioè la messa in produzione dei primi esemplari di TV OLED, che arriveranno in commercio prima della pausa estiva. Si dice giugno, ma io penso che qualcuno potrebbe anche forzare i tempi per arrivare a maggio, in occasione, ovviamente, uno degli appuntamenti importanti di quest'anno, che sono gli europei di calcio, che incominceranno il 7 di giugno. Quindi questi TV stanno veramente per arrivare, e non in un taglio da 11 pollici, ma si salta direttamente al taglio da 55, quindi via, arriveranno così a 55 pollici, che allora, il primo pensiero è: ma se l'11 pollici costava 3.000 euro, il 55 pollici quanto potrà costare? Sì. Costerà 50.000 euro? No. No, per fortuna dovrebbe stare intorno ai 6.000-6.500 euro street price. Cioè, uno dice, forse è qualche molto, cosina ma in pensate più. È che, molto, allora, moltissimo. Tu hai 55? Sì, 55. Allora, 55 da una tabella che tu ci hai gentilmente fornito, ha una diagonale di 1,40 m, sì, che è una bella sberla. È una bella sberla, sì. È un bel TV TV proprio grande. Basti pensare, ecco, che i primi plasma che uscirono, neanche i primi, diciamo la seconda generazione di plasma che uscì, 42 pollici, non in alta definizione e tecnologia ben diversa da questa, costavano 20 milioni di lire al momento dell'uscita, all'inizio degli anni 2000. Quindi questo ci dice come, sì, certo, è molto costoso, però è una nuova tecnologia Il problema... e non è soltanto in realtà un vantaggio che sia nuova, e che si vede nettamente meglio, questo ecco, va detto in ecco, maniera chiara ed evidente. Ecco. Allora, da questo punto di vista, diciamo, possiamo parlare tranquillamente di TV alla radio, e non sarebbe meglio parlare di TV alla TV, perché non si riuscirebbe a vedere, perché uno vede con quello, certo, che ha, quindi, anzi, qui si può immaginare, peso, anzi qui si deve però immaginare. Visto che voi avete visto questi prodotti negli Stati Uniti a Las Vegas, e immagino che oramai, se i primi prodotti usciranno tra maggio e giugno, siamo arrivati già alla fase finale, non è che quello che avete visto è una super anteprima, come si vede? Allora, quella che stavo raccontando prima, il fatto che emetta la luce spontaneamente, sembra una diavoleria tecnologica, ma è alla base della qualità dell'immagine. Cioè, quando il pixel è nero, cioè l'immagine deve darmi un pixel nero, il pannello è completamente spento in quel punto, non emette nessuna luce residua, cosa che un LCD non potrà mai fare, perché comunque è retroilluminato e per quanto i cristalli liquidi riescano a schermare bene la luce, qualcosina passa. Perché le luci LED dei pannelli LCD sono sempre accese. E possono essere leggermente modulate se la scena è più scura, la scena è più chiara, ma normalmente devono essere sempre accese. Mentre in questo caso il singolo pixel si accende e si spegne soltanto quando c'è bisogno. E questo praticamente fa sì, oltre ad altri vantaggi, per esempio sui tempi di risposta che sono nettamente inferiori, questo fa sì che i soggetti che si muovono su fondo scuro saltino fuori in rilievo quasi come fossero 3D anche in una visione 2D, ma soprattutto tutte le trame, quindi le sequenze molto, molto fitte di linee chiare e linee scure, come potrebbe essere per esempio la trama di un tessuto un po' grosso, queste così, diventano molto più belle, molto più reali, molto più realistiche, proprio perché il pixel nero che sta in mezzo ai due pixel illuminati è nero veramente, quindi aumenta la profondità dell'immagine in maniera incredibile. Sì, beh, questo è uno dei motivi che ci fanno preferire normalmente il plasma dall'LCD, proprio per questo motivo. In termini di qualità d'immagine è assolutamente così, anche se il plasma ha un difetto in più rispetto all'OLED, che il pixel nero non può essere veramente completamente spento, perché sennò il gas non si riuscirebbe più a far scintillare così velocemente. Quindi ogni tanto c'è questa precarica che deve essere quindi data. Quindi l'OLED è meglio anche del plasma? L'OLED è meglio del plasma come qualità d'immagine, sicuramente. Forse è l'unica cosa sulla quale non si hanno certezze, è la durata negli anni, ma è evidente, non c'è storico. Cioè non c'è storia. No? E qualcuno potrebbe dire, ma chissà se dura, non è che ci sono elementi per dire che non duri, però sicuramente bisognerà vedere come si comporta negli anni, ma come qualità d'immagine è nettamente superiore, tanto che chiunque lo capisce. Cioè non c'è bisogno di avere, come dire, un occhio allenato, oppure essere degli esperti, essere dei redattori che hanno testato tutti i TV del regno per capire che quell'immagine che vedono è diversa. Magari non si può non sapere che dietro ci sia un OLED, un LCD. Però è chiaro, ed evidente. Però uno dice, mamma mia, ma come si vede bene quel TV? Ci sono dei difetti? Ci sono dei difetti, i difetti sono, potrebbero essere nel pilotaggio di questi pannelli, quindi in tutta l'elettronica che c'è di conversione tra l'ingresso del segnale, per esempio HDMI, e l'accensione e spegnimento di tutti i pixel, perché ancora potrebbe non esserci esperienza sufficiente per ottenere il meglio. Stiamo parlando di quei squilli. Cioè. Dipende, stiamo parlando che, come tutte le prime generazioni di TV OLED, chi lo comprerà a maggio, a giugno, quando sarà disponibile, avrà sicuramente l'ultimo ritrovato della tecnica. Non escludo che la versione 2013 possa essere migliorata in termini di qualità d'immagine, perché si impara meglio a gestire questo tipo di display. Sentiamo Gianni che ci telefona da Oristano. Gianni, buongiorno, benvenuto, l'ascoltiamo. Buongiorno, salve. Volevo ribadire una mia opinione in merito alle immagini dei vecchi televisori a tubo catodico e dei nuovi LCD o al plasma. Secondo me, in quanto valutando le varie immagini, ho visto sempre una differenza sostanziale, appunto, nel percepire l'immagine, sia per quanto riguarda delle tracce che vengono rilevate nella visione dell'immagine, nei pannelli LCD, mentre invece nei vecchi tubi l'immagine è proprio bella chiara, senza avere delle sbordature di definizione, appunto. Dunque, perciò, secondo me, a parer mio, è molto più realistica un'immagine del tubo catodico che un'immagine a LCD o al plasma. Cioè, lei, Gianni, sa che però, poi vediamo se Gianfranco Giardini è d'accordo o meno, ma non può più prendersi un TV a tubo, perché non esistono più. Purtroppo è vero anche questo. Quindi, dico purtroppo, in quanto secondo me è ancora un'immagine non raggiunta, una qualità di immagine che non è stata raggiunta. Gianni, la ringraziamo per averci chiamato. Lo ricordo, il nostro numero verde è 800 24 00 24. Allora, Ho detto questo perché Gianfranco Giardina più di una volta ha detto purtroppo il tubo si è ritirato dalla gara, ma anche perché banalmente i TV a tubo catodico non sono in alta definizione, certo, tranne qualche raro caso. Ma sì, rarissimo caso, a costi molto alti, ma comunque non sono mai stati sviluppati poi a livello consumer, quindi non esistono. Io credo che quell'effetto che ha rilevato il nostro ascoltatore sia un effetto molto comune. Sono in molti quelli che sostengono che, insomma, come si vedeva col vecchio tubo catodico, non si è visto più. Credo che sia il combinato disposto di alcuni effetti messi assieme, sovrapposti. Innanzitutto il tubo catodico era un TV tendenzialmente piccolo. Se io guardo la stessa immagine, la stessa distanza, non più su un 25 pollici, ma su un 50 pollici, ecco che ho quattro volte la superficie dello schermo e quindi in qualche modo io vedrò più sgranato necessariamente, dovrei mettermi più lontano oppure dovrei avere un'immagine ad alta definizione. Però l'immagine ad alta definizione sul tubo catodico non l'abbiamo mai vista e quindi un confronto è molto, molto complesso. Un altro discorso è legato invece alla tecnologia LCD, che si presta molto poco a contenuti di origine analogica, mentre funziona meglio col digitale terrestre, perché i disturbi analogici, quindi la tipica neve, lo sdoppiamento leggero delle immagini, viene enfatizzato dalle LCD. Quindi poi, siccome se volessi confrontare un 25 pollici con un 25 pollici tubo catodico con LCD, perché i plasma non esistono, ecco che avrei quest'altro effetto negativo sulle visioni analogiche. Sì. Io penso che in un mondo che va verso l'alta definizione e verso tecnologie più importanti come l'OLED non ci sia più da essere nostalgici del tubo catodico. Esatto. Però, anche perché va ribadito anche questo, probabilmente la tecnologia di visualizzazione che abbiamo in casa, cioè il pannello, cioè la TV, il televisore, ha fatto passi molto più avanzati, molto più veloci rispetto a tutto quello che ci viene fornito, cioè dalla catena televisiva che emette il segnale. Rai e Mediaset sono tecnologicamente, diciamo, più indietro rispetto a quello che abbiamo in casa noi. Assolutamente, se noi pensiamo che Rai semplicemente si limita ogni tanto a fare qualche evento in alta definizione, il Festival di Sanremo è l'ultimo che c'è stato, anche in Dolby Digital 5.1, però sono singoli eventi spot, mentre per esempio Sky trasmette oltre 20 canali in alta definizione costantemente, sì, in crescita, 30 quindi dobbiamo poi in crescita rapidissima. Esatto, dobbiamo abituarci. Poi va anche detto che dei cattivi LCD esposti in certi negozi non ci fanno sicuramente un bel servizio, insomma, alla comunità tecnologica. 2024. Stiamo parlando di TV a 2024, questo è il programma di tecnologia di Radio 24, come le tecnologie ci cambiano la vita il sabato e anche all'interno del nostro podcast, uno dei programmi più scaricati dal nostro sito web ma anche dalle piattaforme come iTunes. Potete andare sul nostro sito www.radio24.it per trovare al termine del nostro programma la versione podcast, quindi il file MP3 del nostro programma. La prossima settimana ci occuperemo di privacy, un tema molto interessante. Adesso invece stiamo parlando di TV, abbiamo parlato di OLED, questa nuova tecnologia che vedremo presto anche sul mercato a prezzi, tra virgolette, insomma, normali. Una delle cose che forse non abbiamo detto prima, ma che forse vale la pena ribadire, è che tra le cause di una visione cattiva su un TV moderno c'è anche il fatto che molti utilizzano, Gianfranco, ancora la vecchia scarta che andrebbe buttata nel cestino. Beh, no, va tenuta se la sorgente è solo scarta. Sì, quindi se la sorgente è in bassa definizione va buttata nel cestino, se la sorgente è in alta definizione, mentre bisogna usare la connessione HDMI e solo quella. Sono moltissimi casi, e forse magari anche qualche nostro ascoltatore in questo momento si interrogherà su come ha collegato il suo ricevitore satellitare in alta definizione, per esempio, quindi per gli abbonati di Sky, lo Skybox HD, ecco, molti ci hanno collegato sia con l'HDMI ma anche con la presa SCART. Questo significa che quando accendono il ricevitore, lui tramite la presa SCART comunica l'accensione al TV, il TV si commuta automaticamente sulla presa SCART e loro, pensando di vedere in alta definizione, perché leggono il logo Sky HD, sì, sì, in realtà stanno vedendo in bassa definizione. Levate la SCART, sì, questo, senti, è l'ordine. L'OLED consuma di più o di meno rispetto ai tradizionali? Cioè tradizionali, insomma. Allora, uno dei vantaggi della tecnologia OLED è quello di avere bassi consumi. Perfetto. Questo è una cosa fondamentale. E tant'è vero che viene implementato sui device portatili, anche per questi motivi. Detto questo, abbiamo misurato un TV possiamo anche dire che TV è il Philips Econova, l'abbiamo misurato pochi giorni fa, è un TV pensato espressamente per risparmio energetico, quindi è un 40 pollici Philips, il quale ha un consumo di 60 watt, che è molto basso, direi più basso dei TV a tubo catodico. Questo con la tecnologia tradizionale LCD, perché sono stati implementati anche sull'LCD, soprattutto retroilluminato a LED, dei principi di risparmio energetico veramente incredibili. Quindi dire oggi che un OLED, che non abbiamo ancora misurato, consumi meno di un LCD, che invece sappiamo aver fatto passi da gigante, è una cosa che non si può dire. Sappiamo che consuma poco comunque. Sulla nostra pagina Facebook Fabio ci chiede se questa tecnologia è arrivata oppure arriverà anche sugli schermi per computer. Perché no? Ha tutte le caratteristiche, solo che con schermi al computer da 21, 24 pollici, oggi che costano 100-150 euro, perché questo è il prezzo corrente per questo tipo di prodotti, sì, è impensabile avere oggi un display OLED economicamente conveniente. Ma i tempi di risposta si prestano particolarmente all'utilizzo su PC e anche per quello che riguarda il TV, particolarmente per la visione 3D. Sicuramente sono molto più adatte alla visione 3D di quanto non lo siano gli attuali LCD. Dunque, tu all'inizio della nostra chiacchierata hai sparato una cifra, cioè 55 pollici. Mentre chiacchieravamo ieri ho detto 55 è il nuovo 42, perché fino a poco tempo fa uno dei tagli classici dei pannelli di buone dimensioni, quindi tipicamente plasma, era il 42 pollici. Mediamente lì c'era il rapporto qualità-prezzo migliore. Ci stiamo alzando? Ci stiamo alzando un po' perché sono scesi i prezzi, quindi il prezzo è una barriera fondamentale all'acquisizione di nuove tecnologie, quindi abbassandosi i prezzi il 55 è diventato un taglio più popolare. Ci stiamo alzando anche perché migliora la tecnologia, la disponibilità di contenuti in alta definizione aumenta e l'alta definizione spinge verso schermi più grandi. Una cosa che diciamo spesso, ma che ripeto in questa sede volentieri, è che la dimensione di schermo ideale ha una larghezza di circa la metà della distanza di visione. Questo se vediamo in alta definizione. Allora, questo vuol dire che se prendiamo un 55 pollici che è largo 1,20 m come dimensione schermo, 1,22 m precisamente, dovremmo vederlo a 2,5 m. Cioè, quindi questo, tutti dovrebbero avere un 55 pollici, perché molti stanno a 2,5 m, 3 metri. Allora, infatti, il punto è questo: avere un TV grande non fa male agli occhi, avere un TV piccolo fa male agli occhi, perché il TV oggi, soprattutto con l'alta definizione, si legge. Sono tanti i contenuti testuali che vengono passati sui canali in alta definizione, basti vedere proprio tutti i TG 24, insomma, quelli che durano tutta la serie dei vari canali All News, che continuano a passare tamburini con i titoli, con le scritte. Che scorrono, che vanno letti. Quindi un TV grande fa bene agli occhi e non fa male agli occhi. Un TV grande fa bene anche all'arredamento oggi, perché sono bellissimi, perché anche questo va riconosciuto rispetto a qualche tempo fa. I TV adesso hanno una lastra di vetro solo davanti, non hanno più la cornice, sono degli oggetti bellissimi. Un TV più grande fa un po' più male al portafoglio, quello va da sé, ma non c'è un motivo, se non il portafoglio, per scegliere un TV piccolo. Questo anche per i techno chic, come li chiamo io, che ogni tanto dicono che non vogliono il TV grande perché se no, insomma, danno l'idea che loro stanno sempre davanti alla TV, non vogliono dare al TV un'importanza così grande. Io dico sempre a tutti: ricordate che il telecomando ce l'avete in mano voi e non è il TV che telecomanda lo spettatore, quindi si può anche spegnere il TV quando non serve, però quando si vede è giusto poterlo vedere bene. Stessa cosa vale per gli smartphone. Ogni tanto si possono anche si dovrebbero spegnere. Saverio da Torino, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, io volevo chiedere questo, se nella descrizione delle varie tecnologie, no, con il tubo catodico, con Più il tubo catodico, quello lì l'abbiamo dimenticato. Infatti, no, tanto per elencare, e tutto il resto, se viene tenuto conto in questi miglioramenti, in queste nuove tecnologie che danno la super alta definizione, se si tiene conto poi della reale percezione dell'occhio umano, perché noi quando guardiamo non vediamo mai il nero assoluto, vediamo comunque un nero che tiene conto anche di ciò che gli sta intorno, cioè dei colori che gli sono adiacenti. Quindi anche quando guardiamo un paesaggio, non è, raramente diciamo che cielo terzo, tanto per dire che bella giornata, c'è sempre un po' di foschia, un qualche cosa, al di là di questo, quindi non vorrei che poi diciamo migliorando queste tecnologie la realtà venga così trasformata e diventa quasi un fumetto. Questa è una bella domanda, Saverio, la ringrazio perché non ci avevo pensato in questo contesto. Io sono più esperto di audio che di video, ci capisco quasi niente di video. Nell'audio quello che dice Saverio è spesso tenuto in considerazione, tant'è che alcune tecnologie comprimono l'audio dicendo tanto uno poi la super alta definizione audio non la sente, non se ne accorge, quindi tanto vale comprimere e trasmettere solo quello che serve. Vale questa cosa, se ho compreso bene insomma, quello che vuol dire Saverio? Ma secondo me no, perché noi dobbiamo avere un TV che sia in grado di rappresentare al meglio il segnale che arriva, che sia un Blu-ray disc, che venga dall'antenna, ma deve riprodurlo al meglio, vuol dire riprodurlo in maniera corretta. Se io riprendo un qualche cosa di nero, quindi riprendo un nero assoluto e lo mando in onda, questo deve essere rappresentato dal TV come un nero spento, come un nero assoluto. Questo ovviamente accade solo se il mio TV è capace di raggiungere quel nero. Se il mio TV non è capace di farlo, evidentemente non lo fa. Cosa diversa invece è se io voglio enfatizzare questi neri prendendo anche dei grigi scuri e trasformandoli in neri, ma questo è un TV che funziona male, non c'entra la tecnologia. Io devo avere una tecnologia che mi rappresenta al meglio tutta la gamma delle tinte, se possibile tutte quelle riproducibili in natura. Sappiamo che questo non è possibile perché nella sintesi RGB a colori, quindi rosso, verde, blu messi insieme, riusciamo a raggiungere una mappa di colori chiamata anche gamut in termine tecnico, quindi una mappa di colori raggiungibili, e quelli fuori dal gamut non sono riproducibili con quel tipo di tecnologia. Quindi quel tipo di colori noi li riproduciamo. La natura sarà sempre meglio di qualsiasi TV. Questo è un dato di fatto, perché la TV è una riproduzione della natura, e come tutte le riproduzioni, per quanto fedeli, qualsiasi fotografia può essere bellissima perché abbiamo l'ultima fotocamera, ma essere lì e vedere la scena con i nostri occhi è sicuramente meglio. Però nell'audio io posso, diciamo, registrare e trasmettere cose che il mio orecchio non sente. Ma questo quindi è un altro discorso. Per esempio è legato alla dimensione schermo. Cosa vuol dire? Avere uno schermo, per esempio in alta definizione, Full HD, da 32 pollici e vederlo a 3 metri di distanza è totalmente inutile. Questo non sempre viene detto perché commercialmente non è un bel messaggio, però è assolutamente vero, certo. Perché il nostro occhio è lui che a questo punto ha dei limiti, non è in grado di risolvere tutta quella risoluzione, no? E quindi un TV Full HD si può vedere bene, l'abbiamo detto, noi vediamo tutti i 1920x1080 punti se siamo a una distanza che è doppia rispetto alla larghezza dello schermo. Un 32 pollici non è molto largo, perché stiamo parlando di un TV che è largo 70 centimetri, vuol dire che oltre il metro e mezzo di distanza di visione, cioè tutti quelli che hanno 32 pollici lo guardano oltre un metro e mezzo, ecco, oltre un metro e mezzo non vedono più la risoluzione Full HD. Per questo ha ragione per certi versi il nostro ascoltatore, ma soltanto se si dice che non in termini di tecnologie, ma per esempio la dimensione schermo, potrebbe esserci dimensioni schermo che se fossero Full HD o soltanto HD Ready, ecco, la differenza non c'è. Chiarissimo, chiarissimo. Dunque, tra poco vogliamo parlare anche di alcune novità che riguardano l'interazione che noi avremo presto con questi nuovi TV. 2024. Un'altra delle cose che vedremo presto sui moderni TV, io dico moderni per farmi capire, però insomma ormai non andrebbe nemmeno più utilizzato questo aggettivo, dicevo, un'altra delle tecnologie che vedremo applicata alle TV è il riconoscimento facciale, il riconoscimento dei gesti, il riconoscimento vocale. Spiegaci che cosa vogliamo dire, Gianfranco, e soprattutto come funzioneranno queste cose tra un mese, due, tre. Sì, tra poco. Beh, sono tecnologie che abbiamo già visto, diciamo, nell'ultimo anno e mezzo, magari sulle console videogame, su altri tipi di applicazioni che però entrano nel TV. Quindi, per esempio, Samsung ha presentato tutta una nuova serie di suoi smart TV che a partire dai modelli 2012, quindi quelli che arriveranno fra un mesetto in negozio, hanno queste funzioni, per esempio, di riconoscimento vocale, per cui possono essere comandati col telecomando o semplicemente con un comando vocale dove si può dire canale su, canale giù, volume su, volume giù, oppure anche canale 121. E il TV riconosce il messaggio e cambia canale. Ecco, magari quando si hanno due o più persone che si litigano, si contendono l'utilizzo del TV e vogliono vedere chi una cosa, chi l'altra, non è propriamente il massimo della vita, perché si rischia di litigare a voce il possesso del TV, ma è sicuramente una cosa molto utile, io dico soprattutto per le persone con qualche difficoltà di movimento. Io penso per esempio alle persone anziane, piuttosto che anche semplicemente un giovane con una gamba rotta, semplicemente si siede davanti al divano e si accorge che il telecomando non è lì nei pressi, non è lontano, non sa dov'è. Ecco, può comunque comandare il TV con i comandi vocali, che può essere una cosa comoda. Allo stesso modo, questi TV avranno anche la possibilità di essere comandati a gesti, quindi con dei gesti, proprio muovendo la mano davanti alla telecamera che è già integrata nel TV, si muove un cursore sullo schermo e si può quindi andare a fare tutte le operazioni anche sul menu tranquillamente, e il click è praticamente il pugno, quindi quando la mano è aperta viene riconosciuta come puntatore e quando la mano viene chiusa per un attimo, quello è il momento del click. Ecco, in questo modo si può interagire anche col TV, ma questa stessa interazione per esempio su TV LG diventerà sempre durante questa stagione la possibilità di videogiocare direttamente col TV. Lo facciamo già con Kinect di Xbox 360, la differenza è che in questo caso si fa direttamente col TV senza bisogno di una console esterna e anche con una potenza di gioco non indifferente, perché questo lo dico per gli amici videogiocatori che sono sicuramente scettici nel confronto a potenza di gioco di un TV, perché in realtà questi TV implementeranno una nuova tecnologia di cloud gaming, per cui in realtà il gioco non si tiene sul processore del TV, ma si tiene su un processore remoto. Il TV deve essere collegato a internet e fa soltanto la parte di visualizzazione su schermo di quello che sta accadendo, ma in realtà la potenza di calcolo viene fornita dai server esterni, e quindi esperienza di gioco sofisticata, giochi ultimo grido, possibilità di controllo del movimento, assenza della console. E quindi qui è un po' il concetto di dematerializzazione della vecchia console, sempre nella direzione di ridurre cavi, apparecchi, oggetti sotto il TV e quindi anche confusione e polvere. Senti, riconoscimento facciale? Riconoscimento facciale è un'altra tecnologia che già conosciamo per esempio sui PC. Sì, è vecchia, però implementata su TV. Che cosa fa? Il TV riconosce gli utenti che sono posti di fronte allo schermo. Se un utente è un utente conosciuto, quindi già registrato, appunto precarica tutte le sue impostazioni, quindi i suoi canali preferiti, quindi i suoi preferiti per esempio di navigazione internet, perché questi TV, ricordiamo, navigano su internet, e così via. Quindi è sicuramente una novità carina, potremmo dire anche un gadget se vogliamo, ma quei gadget che quando si fa vedere agli amici sicuramente colpiscono molto. Senti, un'altra delle cose che stanno accadendo, allora ci tengo a precisare che noi tendenzialmente vogliamo commentare quello che o accade già oggi o quello che accadrà a breve, perché è troppo facile parlare del futuro remoto, nessuno ci può smentire, sono capaci più o meno tutti, invece la capacità di interpretare l'oggi, di mettere in connessione tutte le tecnologie, di spiegarle soprattutto, è una capacità molto rara che noi riconosciamo ai nostri ospiti, e normalmente i nostri ospiti sono in grado di farlo, Gianfranco Giardina in primis. Dunque Gianfranco, no, perché molti ci chiedono, ma ci dite che cosa succederà fra 8 anni? Ma chi lo sa? Chi lo sa? Se lo sapessimo probabilmente saremmo in qualche centro studi a dettare le linee guida strategiche per il futuro. Invece poi dipende che centro studi, perché ci sono dei centri studi che poi vengono sorpassati da altri e uno esce e vede cose incredibili e dice abbiamo perso un sacco di tempo. Dunque no, invece una cosa che sta per succedere è che le TV che oramai sono in gran parte smart TV, quindi possono essere collegate alla rete internet, offriranno delle funzioni di server per altre cose che sono collegate alla rete domestica. Sì, questa è una cosa molto attesa in realtà, perché era un buco un po' delle funzioni degli attuali Smart TV. Gli attuali Smart TV normalmente integrano la funzione PVR. Premetto, chiedo scusa per tutte queste sigle, ma purtroppo sono così. Certo. PVR è Personal Video Recorder, cioè possono video registrare su una chiavetta USB o su un hard disk USB esterno i programmi televisivi. Ed è una cosa molto comoda in un'epoca in cui il videoregistratore VHS, a causa della digitalizzazione, non si può più usare. E viene infatti molto usato, però qualcuno dice: ah, ma io prima con la videocassetta registravo il programma, prendevo la mia videocassetta, me la portavo in cucina, me la portavo in camera da letto e finivo di vedermela di là. Quindi registravo da una parte, ma magari poi rivedevo da un'altra. Non posso più farlo e questo è un limite. Infatti i PVR attuali funzionano soltanto sul TV che, cioè i contenuti registrati funzionano soltanto sul TV che li hanno registrati. Una novità dei TV Panasonic recentemente presentati, che arriveranno anche questo fra qualche settimana, e quindi direi a fine marzo anche questi dovrebbero essere sugli scaffali, è quella di integrare anche la funzione di server di LNA, quindi altra sigla, ma purtroppo anche qui dobbiamo dirla per essere precisi, cioè i contenuti video registrati sul chiavetto USB o sulla disk esterno potranno essere visti da altre Smart TV, anche non di marca Panasonic, quindi Smart TV direi qualsiasi, sulla rete locale. Quindi scenario classico: TV in salotto che registra con un hard disk e possibilità di vedere contenuti registrati dal TV in camera da letto, dal TV in cucina, purché essi siano collegati alla rete o a filo o senza filo. È un vantaggio non da poco. Io credo che queste sono le innovazioni vere di cui l'utenza ha bisogno, forse un po' di più rispetto al comando gestuale, che è sicuramente molto bello, ma non è nella lista delle necessità che già gli utenti sentono oggi. Anche in Wi-Fi questa cosa? Anche in Wi-Fi, a patto di avere una connessione Wi-Fi decorosa. Sì, sappiamo che le connessioni Wi-Fi, soprattutto se a router è distante, possono degradarsi velocemente o possono anche degradarsi, ahimè, per la compresenza di troppe reti Wi-Fi nella stessa area. Quindi sì, questo è difficile garantirlo. Esatto, questo effettivamente in città è un problema, dove soprattutto ci sono palazzi pieni di reti Wi-Fi che si incrociano e si intersecano a vicenda. Bene Gianfranco, io ti ringrazio per essere stato con noi in questa puntata di 2024, ti auguriamo buon viaggio, visto che andrai a vedere anche nuove tecnologie o solo siti di produzione? Anche nuove tecnologie, una tecnologia che non abbiamo citato perché ancora se ne sa poco, si chiama Crystal LED ed è una nuova tecnologia di Sony che prevede per esempio la possibilità di avere il display intero fatto con dei micro LED, quindi non più pannello LCD, ma dei micro LED che compongono l'immagine. Abbiamo visto il primo prototipo a Las Vegas, immagine fantastica, direi allo stesso livello degli OLED, promessa di avere un prezzo di produzione dimezzato rispetto a quello degli OLED. Incredibile. Però non si conoscono ancora né i tempi, certo, né è stato possibile vederli a più di 2 metri di distanza. Quindi cercheremo di capire direttamente dal Giappone se questa promessa sarà bisogna fare mantenuta. 12.000 chilometri per vedere una cosa a 1 metro di distanza, magari. Assolutamente sì. Bene, grazie ai nostri ascoltatori che ci hanno aiutato in questa puntata, che ci hanno ascoltato, grazie a Pietro Lacorte che si è occupato della parte tecnica. Tra poco troverete questa puntata sul nostro sito internet oppure attraverso le piattaforme che utilizzate per scaricare la versione podcast di 2024. Ciao Gianfranco, a presto. Grazie mille. Ricordo l'indirizzo di posta elettronica di 2024 se volete comunicare con noi: 2024@radio24.it. E vi ricordo anche la nostra pagina Facebook per continuare la nostra discussione, la nostra chiacchierata. Ci risentiamo la prossima settimana. La prossima settimana, oltre a parlare del Mobile Congress di Barcellona, parleremo anche di privacy, perché stanno arrivando alcune novità, in modo particolare per quanto riguarda Google. Appuntamento tra 7 giorni. 2024.